con Sofia Peri, protagonista del documentario Io sono Sofia, scritto e diretto da Silvia Luzzi, in programmazione su Rai 3 sabato 1º giugno 2019. E Sofia, ben trovata. Che Buongiorno, ben trovata anche a te. storia racconta? Intanto è un film che racconta la mia storia. Racconta la mia storia partendo dalla mia storia, per cui racconta la storia mia, della mia famiglia e di tutte le persone che mi sono state attorno, ma non solo, perché in verità racconta anche la storia di tante persone che si trovano in una situazione molto simile alla mia, persone che vogliono transizionare, persone che si sentono e sanno di essere un genere, che lo Stato dice no, non è vero, tu non sei quel genere e devono lottare per vedere, riconoscere la identità. È un film che essenzialmente non parte dall'inizio, dalla parte che un pochettino tutti conosciamo, che è stata molto stereotipata, ma va ad affrontare quello che è un tema molto importante per molti di noi, che è il viaggio. Perché per molte di noi persone transgender purtroppo non sempre troviamo un ambiente che ci permette di affrontare la transizione al meglio, ma dobbiamo viaggiare per cercare chi è il più esperto per poterci aiutare. Com'è nata l'idea di realizzarne un film? La cosa curiosa è che io inizialmente non avevo nessuna intenzione né di fare un film, né di fare un documentario, né di espormi. Tutto è nato quando principalmente abbiamo iniziato a parlare con una mia collega e lei così con curiosità ha iniziato a farmi domande sempre di più, fino a quando non è venuta a me dopo un po' di tempo e mi ha detto: "Senti, io vorrei portare la tua storia a quante più persone possibili, perché credo che qui si possa aiutare delle persone." La cosa curiosa è che inizialmente dissi: "Ci devo pensare perché non ho tanta voglia di espormi." Però poi mi sono resa conto che se non mi esponevo io, chi lo faceva? È una di quelle situazioni in cui sì, potresti vivere con calma, sì, potresti vivere in silenzio, però se qualcuno non fa qualcosa, chi lo fa? Per cui a un certo punto ho detto sì. Ho intenzione di muovermi ed è cambiato letteralmente tutta la mia vita, perché da allora sono orientata non soltanto per questo film, ma per un sacco di altre cose, essenzialmente un attivista. E così l'idea è nata da questa idea di questa persona che poi si è evoluta in diverse funzioni e poi è diventata Io sono Sofia. Com'è stato il rapporto con Silvia Luzzi nella realizzazione di questo lavoro? Silvia è una persona veramente stupenda. Io quando la incontrai per la prima volta ci andammo a mangiare, a prendere una cosa da bere lì al Pigneto, che è il quartiere più queer di Roma, forse, credo. Almeno così l'ho sempre sentito io. E iniziamo a parlare, parlare e parlare, perché la prima cosa che volevamo capire era: possiamo raccontare una storia assieme? E è stato molto bello, da lì essenzialmente siamo diventate amiche. Di tanto in tanto ci vedevamo per scambiarci due parole, incoraggiamenti, eccetera. E il nostro lavoro assieme è stato veramente. Lei riesce veramente a tirare fuori le emozioni più forti, più interne. Ci sono stati dei momenti durante il film che sono stati veramente difficili da girare, perché io vi assicuro che le emozioni che vedete là sono assolutamente vere. Sono momenti in cui veramente non avrei voluto far altro che scappare da quella telecamera, ma lei mi è stata vicina prima e dopo, e soprattutto mi ha permesso di tirare fuori tutto quello che volevamo raccontare. In qualità di attivista, cosa fai? Io principalmente lavoro su piattaforma web. Sì. Ho detto, partecipo in diverse chat internazionali in qualità di assistenza psicologica, non tanto psicologica, ovviamente non sono psicologo, ma assistenza. Le persone che sono in difficoltà e persone soprattutto nel campo LGBT che si ritrovano in situazioni molto disagiate, famiglie che non supportano, anche abbandono letteralmente, homelessness, come si dice in italiano, homelessness, scusa, persone che sono letteralmente cacciate fuori di casa, persone che vogliono andare al suicidio. Io sono quella che è sempre disponibile nella chat per chiunque voglia parlare e chiunque abbia bisogno di un supporto. Per quanto riguarda il nostro paese, appunto, faccio informazione su YouTube, che ho un mio canale YouTube in cui faccio informazione LGBT, e non solo in verità. E Io ho una pagina Facebook dove ho iniziato anche da lì di recente a fare informazione tramite quella. In più, in diversi vari ambienti, che possono essere Gnieli, come possono essere il Gay Center, ho collaborato a diversi progetti. 2 anni fa abbiamo fatto una campagna fotografica per il Pride del 2017. E sì, insomma, tante piccole cose indipendenti. Io per scelta non sono affiliata a nessun gruppo maggiore LGBT, ma sono sempre stato un jolly che va dove è necessario e dove è utile. Ecco, in questo senso, quali sono le principali rivendicazioni di chi vive la tua condizione? Allora, la cosa principale che noi persone trans, io parlo in particolare per noi ragazze trans, che vogliamo far capire è che ovviamente non esiste un solo modo di essere donna. Molto spesso, soprattutto in questo clima che sembra veramente ritirare fuori il peggio degli stereotipi, ci si concentra sul fatto che chi non è mamma non è donna, e questo sputa in faccia non soltanto a noi, ma a tutte le donne che A, non vogliono avere figli, B, non possono avere figli. Abbiamo sicuramente una rivendicazione dal punto di vista della salute, perché in quanto cittadini italiani abbiamo diritto alla salute e paghiamo le tasse anche per questo, ricordiamoci sempre, e il diritto alla salute psicologica fa parte del diritto di salute italiano e l'accesso agli ormoni è qualcosa che al momento è completamente sregolato e ogni regione fa un po' per conto suo e molte persone sono costrette a passare attraverso dei letteralmente degli anelli infuocati, stile circo degli animali per poter arrivare a quello di cui ha bisogno, perché ricordiamoci sempre che una persona che sta psicologicamente bene e una persona che ottiene una sua terapia, statisticamente, perché ci sono proprio statistiche e ricerche mediche che lo provano, è una persona che sta psicologicamente meglio rispetto a una che non ha supporto, è un cittadino comunque valido all'interno della società, è un cittadino che lavora, un cittadino che invece ha un disagio psicologico, un disagio sociale, da un punto di vista puramente, come dire, utilitaristico, è una persona che comunque la società vuole far entrare. Di conseguenza noi rivendichiamo la nostra salute, rivendichiamo la nostra identità. E rivendichiamo il fatto che al momento non ci sta nessuna legge dal punto di vista della protezione contro la transfobia. Ancora è praticamente legale per chiunque, in moltissime regioni, soltanto alcune hanno fatto degli emendamenti regionali, è ancora legale per chiunque avvicinarti a te e dire: io non credo che tu sia donna, io credo che tu, essendo trans, debba morire. E tutte queste belle cose che portano le persone veramente a stare molto molto male. Che tipo di distribuzione state pensando per questo lavoro? Io sono Sofia, inizialmente andrà in onda su Rai 3 sabato 1 giugno alle 22:30. In seguito il film sarà su Rai Play e sarà presente lì. Passerà un pochino di tempo perché andremo a una proiezione a Bologna qualche giorno dopo a giugno e dopo quella inizieremo a lavorare dal punto di vista e fare delle proiezioni in altre città d'Italia. Abbiamo anche una versione inglese che distribuiremo all'estero e dopodiché in verità si dovrà vedere perché non conosco moltissimo dal punto di vista della distribuzione come sono i piani. Sì. Ecco, in questo senso ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Sul sito della GAA Productions, GAA Productions, ci sarà sicuramente il film sulla Rai e Rai Play. Il sito di Rai Play ci sarà il film che si potrà vedere in streaming su Rai Play. E sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook, Sofia Pivadar, Sofia Q in particolare, nella mia pagina Facebook e nel mio profilo YouTube. Pure lì si potranno trovare diversi riferimenti a come trovare il film e come seguirmi e come, insomma, rimanere in contatto con tutto questo ambiente. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con Io sono Sofia, documentario di Silvia Luzzi su Rai 3, sabato 1 giugno 2019 alle 22:30, giusto l'orario? Esattamente. Un abbraccio e un ringraziamento alla protagonista Sofia Peri. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie. tutti voi e grazie a chi deciderà di seguirci e buona visione.